Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi vogliamo raccontare una storia straordinaria, straordinaria perché la nostra protagonista è sconosciuta ai più in Italia e anche non solo in Italia, la conoscono gli storici, gli studiosi del suo paese o di quel periodo, però è per lo più sconosciuta. E se andate a guardare, non so, su Wikipedia in italiano, ci sono veramente poche righe su di lei. Wikipedia, oggi siamo noi. Questa donna è stata la donna più potente del mondo per un lungo periodo di tempo, certamente una delle donne più influenti della storia dell'umanità. Se andiamo a fare un calcolo del numero di persone per le quali lei è stata un leader indiscusso, allora non ha veramente eguali, perché lei è stata la First Lady cinese. Ha governato sul popolo più numeroso del mondo e per tutti quei milioni di persone è stata una leggenda vivente. Oggi raccontiamo l'incredibile vita di Mei Ling Song, la moglie del presidente cinese Chiang Kai-shek, soprannominato il Generalissimo, che è stato a capo della Cina, tra alterne vicende, quasi 50 anni. Questa che sentite è la sua voce originale, la voce di Mei Ling Song, è tratta da un vecchissimo documento dell'epoca, cioè degli anni 30, e io non capisco esattamente cosa dice, però quello che vogliamo dire è che è la voce di una giovane donna che nel video peraltro appare in tutta la sua bellezza, era molto bella, la classica cinese bella, occhi a mandorla, capelli neri, corvini, una carnagione perfetta, un fisico esile, elegantissimo, e la vediamo fasciata in un meraviglioso abito tradizionale cinese di seta pura. Però a dispetto di questa sua immagine così eterea, Mei Ling Song è una donna incredibilmente determinata che nella sua lunghissima vita, perché è morta a 106 anni, ha lavorato strenuamente, ha lottato, non si è mai arresa alle difficoltà, non ha avuto paura di confrontarsi con i potenti della terra, ha parlato alle nazioni, ha avuto detrattori che l'hanno accusata delle peggiori nefandezze e forse qualcuna l'ha anche commessa, però non ha mai mollato. È un esempio straordinario di determinazione, intelligenza e caparbietà. Mei Ling Song ha affiancato il marito nella sua lunga carriera politica, è stata prima la sua segretaria, poi la sua interprete, la sua consigliera, è ovviamente la sua donna, la sua amante prima, la moglie dopo, leader delle donne cinesi, inviata negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale come capo dell'aviazione cinese, l'unica donna al mondo che sia mai stata paragonata per carisma e importanza all'altra grande First Lady della storia, Eleanor Roosevelt. Mei Ling Song nasce a Shanghai il 5 marzo 1897 da una famiglia benestante. Il padre è un grosso imprenditore molto occidentalizzato, uno che è stato spesso negli Stati Uniti. Sono cristiani, tra l'altro. E infatti Mei Ling ha anche un nome cristiano, si chiama Olive. I Song hanno 6 figli, 3 maschi e 3 femmine, e tutti avranno un ruolo preminente nella storia cinese. Da ragazzina lei è paffutella, la chiamano la piccola lanterna, è un po' arrogante e permalosa, peraltro è anche bruttina. Quando si agita le viene l'orticaria, che è un problema peraltro che si porterà dietro per tutta la vita. Tutti i Song vengono spediti a studiare negli Stati Uniti, però la cosa per i maschi è normale, è una consuetudine delle famiglie ricche cinesi dare ai propri figli maschi una educazione internazionale, per le femmine un po' meno. Invece le 3 sorelle Song, Eileen, Qingling e Mei Ling, vengono mandate tutte al Wesleyan, che è un college metodista a Macon in Georgia, il più antico college per ragazze che ci sia al mondo. Le 3 diventano subito le studentesse più premiate e ottengono grandi successi negli studi. Lei è arrivata nel 1907 negli Stati Uniti a 10 anni e si laurea 10 anni dopo, a 20 anni, all'Università Wellesley nel Massachusetts. Si laurea in letteratura americana e filosofia, ottiene anche il Durant Scholar, che è il più alto riconoscimento accademico. E la sua compagna di corso e grande amica, la filantropa Emma Delon Mills, con la quale lei manterrà una grande corrispondenza, racconta questo. All'inizio del college non voleva ammettere di essere cinese, diceva sempre sono del sud, ma poi nel corso degli anni cambiò. Iniziò ad esprimere il desiderio di tornare a casa. Voleva dedicare la propria vita alla causa cinese. Era amareggiata dal fatto che gli occidentali sottovalutassero il contributo che la Cina aveva dato alla civilizzazione. Così lei torna in Cina nel 1917 e vuole ricoprire un ruolo prominente nel proprio paese. Lo hanno già fatto le sue sorelle maggiori, perché una ha sposato un uomo d'affari molto potente, l'altra ha sposato addirittura Sun Yat-sen, che è il rivoluzionario artefice del rovesciamento dell'impero, il fondatore della Cina moderna, il primo presidente della Repubblica cinese. Diciamo che sono donne che sono state educate, cresciute per diventare mogli di uomini potenti. Anche Mailing lo è, ma lei non sta pensando al matrimonio perché ama il suo paese, però lo conosce poco perché è stata via negli anni formativi, quindi inizia a studiare i classici cinesi, impara a cantare secondo la tradizione e diventa il perfetto ponte tra Oriente e Occidente. Il falco e il gabbiano. Mei Ling Song adesso non è più la ragazzina bruttina che era nell'adolescenza, è diventata bella, colta, intelligente, è laureata, è una parte di una famiglia potente, è ricchissima, vive una vita da privilegiata a Shanghai con 12 inservienti ai suoi comandi, abita in una casa da favola, frequenta i locali alla moda e svolge anche altre attività che sono quelle tipiche della sua condizione. Insegna l'inglese ai bambini poveri, è membro della giuria del Festival del Cinema di Shanghai, promuove attività benefiche. E lei e le sue sorelle hanno molto chiaro il modello di donna emancipata, libera, il modello americano, diciamo, vogliono portare questo modello in Cina. Lei potrebbe vivere una vita di ragazza ricca, in tranquillità, invece si appassiona alla questione delle donne, dei minori sfruttati nelle terribili fabbriche della seta, dove sono costretti a turni bestiali davanti alle vasche di acqua bollente in cui vengono immersi i bozzoli dei bachi. Lotta strenuamente fin quando non diventa membro del Concilio Municipale di Shanghai per la tutela del lavoro femminile e minorile. E allora erano importanti queste cose. Peraltro è la prima donna a ricoprire questo ruolo. Insomma, lei, che poteva essere una specie di Paris Hilton cinese, una che poteva godersela e basta, diventa una donna simbolo per la difesa dei diritti dei più deboli. E lei è appassionata e combattiva, ed è così probabilmente che fa innamorare l'uomo destinato a cambiare non solo le sue sorti, ma quelle di tutta la Cina, il generalissimo Chiang Kai-shek. The object of this revolutionary movement. Questa era la sua voce, la voce di Chiang Kai-shek e quella del suo traduttore inglese, perché lui parlava solo cinese. Quando lei lo incontra, lui è un personaggio molto noto in Cina, è uno un po' ambiguo, è stato già sposato due volte, ha commesso degli omicidi, è legato al sottobosco criminale di Shanghai, fa parte della Banda Verde, che è una società segreta mafiosa che ha interessi negli ambienti portuali. Lui è il braccio destro di Sun Yat-sen, che aveva sposato la sorella di Mei Ling, vi ricordate? Quando il capo si rivolge a Lenin per studiare il modello politico e militare sovietico da riprodurre in Cina, manda proprio Chiang Kai-shek a Mosca perché è il suo uomo di fiducia, e al suo rientro viene nominato comandante dell'Accademia Militare, dove conosce molti giovani che diventeranno poi i suoi fedelissimi generali e collaboratori. E nel 25 il presidente Sun Yat-sen muore di cancro e Chiang Kai-shek prende il suo posto a capo del Partito Nazionalista Cinese, un partito, diciamo, conservatore di centrodestra supportato dall'esercito, che propugna una rivoluzione però non comunista. A questo punto Chiang Kai-shek chiede in moglie Mei Ling, perché l'aveva già conosciuta alcuni anni prima a casa del presidente e gli era piaciuta, se n'era innamorato, però non era stato considerato un elemento degno dalla famiglia di lei perché era già sposato, perché era di dubbia moralità. Poi uno, quando diventa presidente, come dire, c'è una moratoria morale totale. Adesso lui è l'uomo più potente della Cina, le cose cambiano e la loro diventa un'unione politicamente auspicabile. Lui avvia le pratiche per il divorzio, si fidanza ufficialmente con Mei Ling e le scrive così: sono molto felice per il nostro amore e affetto reciproco. Questa è una gioia che si incontra raramente nella vita. Insomma, lui si è veramente innamorato di Meilin, la storia parlerà per lui, però è vero anche che la donna rappresenta un ponte con l'Occidente, questo gli serve, ma insomma l'amore è spesso fatto di molte componenti, alcune anche non nobilissime. Insomma, è un'unione di amore, ma anche di potere, il miglior connubio. E il 1 dicembre del 27 i due si sposano. È l'evento dell'anno, nell'Hotel Majestic di Shanghai arrivano 1300 invitati, gli uomini più potenti di Cina, gli alti ufficiali dell'esercito, gli uomini d'affari più ricchi, le donne più belle e eleganti, che ovviamente hanno sposato gli uomini d'affari più ricchi, insomma la crema della Cina di quel momento. Tutti all'entrata vengono perquisiti senza distinzione da questi semicriminali della Banda Verde, quelli che proteggono il generalissimo. E dopo un mese, il 1 gennaio 1928, Chiang Kai-shek viene eletto presidente del comitato esecutivo centrale comandante in capo dell'esercito, al sostegno dei capitalisti di Shanghai e quello delle banche. È pronto, insomma, a trasformare la Cina in una nazione forte e democratica. Così Mei Ling Song diventa Madame Chiang, inizia a rendersi conto di cosa significhi fare la First Lady. Intanto deve fare i conti con i detrattori del marito, soprattutto i comunisti, che accusano il governo di essere un governo corrotto, di avere dato tutte le cariche più importanti ai parenti, di essere incapace di affrontare i reali problemi del paese. E inoltre lei deve anche combattere con difficoltà mai vissute prima, perché dalla modernissima Shanghai deve spostarsi a Nanchino, allora sede del governo, e lei la definisce così, Nanchino, in una lettera all'amica Emma. Nanchino non è altro che un piccolo villaggio con un'unica strada larga nel mezzo. Le sue case sono tutte uguali, primitive, fredde, inospitali. Non ci sono i più elementari conforti della società civile, non c'è l'elettricità e la gente non sa cosa siano i rudimenti dell'igiene. Quindi un grosso passo indietro per amore di potere. Nanchino è alle pendici del Monte Viola, sud del fiume Azzurro, 250.000 abitanti, però è una cittadina rurale e poco adatta a accogliere il generalissimo e la sua ricca e anche viziata consorte. Però lei è famosa per la sua energia, è instancabile, magari un po' arrogante, magari violenta, però pronta a rimboccarsi le maniche e a trasformare quel villaggio in una splendida città. Così ci porta l'elettricità, compie opere imponenti, fa costruire alberghi di lusso, case riscaldate, un enorme complesso di scuole per i figli dei soldati del marito, crea dormitori, mense, giardini, palestre, piscine, realizza scuole all'avanguardia sul modello dei college americani che lei conosce molto bene, però con una variante importante. I bambini vengono allontanati dalle famiglie, cresciuti lì sotto la guida di un leader militare. Insomma, oltre ad aver ristrutturato Nanchino del tutto, credo che la pensino, la ringrazino ancora oggi da quelle parti, lei fa una grande rivoluzione culturale, la prima, e poi in Cina ne faranno altre di rivoluzioni culturali. E lei si occupa dei militari, che fino a quel momento si trovavano in un gradino molto basso della scala sociale, e lei li nobilita. La professione del militare diventa onorevole e rispettata, le nuove generazioni ambiscono a entrare nell'esercito, che prima era il ripiego dei poveri o di chi non sapeva fare altro. Lei crea un circolo ufficiale in Cina e non compie solo questo tipo di innovazioni, sente che il suo paese ha bisogno di grandi cambiamenti che possono avvenire solo attraverso le leggi. Quindi si autoproclama membro del corpo legislativo del governo e le sue riforme riguardano soprattutto i diritti delle donne. E, per esempio, crea il reato di bigamia, forse anche perché scottata, insomma, dal vivace marito Chiang Kai-shek, attribuisce alle donne pari eredità coi fratelli maschi alla morte dei genitori, stabilisce una età minima per il matrimonio, era una cosa importante, riesce a evitare un fenomeno, quello delle spose bambine, che in altri paesi c'è ancora oggi, e ammette che le mogli possano lavorare senza il permesso dei mariti. Ricordiamoci che siamo agli inizi del Novecento. Insomma, Mei Ling trasforma le donne cinesi in moderne donne americanizzate. Il falco e il gabbiano. La nostra protagonista di oggi è un personaggio incredibile, Mei Ling Song, un personaggio del quale si sa molto poco, e invece è un peccato perché ha avuto una vita veramente fantastica e interessante. È la moglie di Chiang Kai-shek, il premier cinese, e quella che per quasi 50 anni è stata una delle donne più potenti del mondo. Non è stata un presidente, una governante, era però la first lady della Cina. Ha avuto una influenza straordinaria sia nel suo paese sia all'estero, si è seduta al tavolo coi potenti della terra, è riuscita a passare indenne attraverso la seconda guerra mondiale, attraverso una sanguinosa guerra civile. In un'epoca nel quale il maschilismo imperava, lei viene considerata al pari di un uomo, non si è mai accontentata di rimanere all'ombra del marito, e il marito senza di lei probabilmente non sarebbe rimasto al potere così a lungo. Intanto siamo arrivati agli anni 30, quando Chiang Kai-shek sposta la sede del suo governo a Nanchino e lei trasforma una città rurale totalmente anonima in una moderna metropoli sulla falsariga delle città americane, quelle che lei ben conosce. Clarence Gauss, un diplomatico americano a Nanchino, scrive così di lei. Mei Ling si siede a fianco del marito. Gli dice cosa fare e cosa non fare, dà istruzioni e tutti obbediscono. Ha una profonda influenza su tutto. Non sono mai riuscito a incontrare il generalissimo da solo. Lei è la sua ombra. E così la coppia presidenziale si divide i compiti in maniera perfetta, perché lui rafforza la sua posizione attraverso l'esercito. Nel 32 crea il suo corpo di difesa speciale, le camicie azzurre, su ispirazione delle camicie nere di Mussolini. Manda i suoi uomini a formarsi in Germania, a studiare nazismo dai nazisti, e lei nel 34 è invece dà corso al movimento di Nuova Vita, che propugna la rigenerazione sociale della Cina attraverso un programma fatto di diversi punti: frenare il malcostume, evitare lo sperpero di denaro, insegnare l'igiene di base, non so, come lavarsi i denti, come fare il bagno, come lavare la verdura, insegna a non sputare, a non bere troppo. Ci vorrebbe anche adesso, insomma, una così. Crea la rete fognaria in tutta la Cina, realizza una serie di cartelloni pubblicitari dove insegna come evitare le malattie e come sconfiggere i parassiti. Insomma, fa uscire la Cina da quello stato rurale nel quale versava alla fine dell'Ottocento. Crea la Lega delle Casalinghe per insegnare alle donne a cucinare, a fare la spesa, a allevare i figli. Insomma, questo movimento le regala una notorietà straordinaria, perché anche se non avrà mai figli, diventa la mamma di tutti i bambini e viene considerata la sorella di tutte le donne, la consigliera degli uomini. Il generale tedesco Hans von Seeckt, che è incaricato da Chiang Kai-shek di dirigere una campagna di sterminio dei comunisti, parla così di Mei Ling. Ho incontrato poche donne con il tatto e l'intelligenza della First Lady Chiang. È completamente consapevole della posizione che ricopre, ma non traspare alcuna arroganza o superiorità. È interessata alla politica, non solo agli aspetti sociali del suo paese, ed è sorprendentemente informata. Nel 1936 Mei Ling è protagonista di un evento storico che è chiamato l'incidente di Xiang. Il generalissimo Chiang Kai-shek viene rapito da un gruppo di soldati ammutinati che, in accordo con i comunisti, vogliono avviare un'offensiva contro il Giappone, perché il Giappone nel frattempo ha mire espansionistiche, ha invaso dei territori cinesi. Chiang Kai-shek frena una reazione che porterebbe alla guerra. Insomma, il presidente viene rapito e lei cosa fa? Va a riprenderselo. I termini del rilascio sono avvolti dal mistero: forse paga un riscatto, forse fa appello a Stalin promettendogli qualcosa in cambio. Sta di fatto che lei torna a Nanchino col marito e loro è un rientro trionfale. L'incidente di Xiang è un passaggio cruciale della storia cinese, perché Chiang Kai-shek diventa l'eroe che non tratta coi ribelli, ma lei, Madame Chiang, è l'eroina che sfida la morte per il suo uomo. Diventano una celebrità all'estero, tutti parlano ormai della coppia presidenziale cinese e la paragonano a quella americana, Franklin e Eleanor Roosevelt. ma la storia sta bussando alla porta e a questo punto il generalissimo non può più tergiversare, perché nel luglio del 37 scoppia la guerra cino-giapponese e lei si comporta in guerra come aveva fatto in tempo di pace, perché va al fronte, parla ai soldati, porta caramelle, sigarette, si fa riprendere mentre cuce le divise, mentre cura i feriti, porta da mangiare le mogli ai figli dei combattenti, insomma fa una vera e propria campagna mediatica che la fa diventare il simbolo di una Cina orgogliosa che combatte i barbari invasori. Scrive sui giornali statunitensi descrivendo la situazione che vive la sua patria, conquista gli americani. E il 3 gennaio del 1938 il Time esce con la coppia presidenziale cinese in copertina, nominando Chiang Kai-shek e Mei Ling-song coppia dell'anno. Lei è la prima donna della storia a apparire sulla copertina della rivista. E intanto i giapponesi avanzano, conquistano Shanghai e Nanchino, la coppia presidenziale deve scappare in esilio, ma questo non impedisce a Mei Ling di continuare la sua personale campagna propagandistica. I problemi della Cina risiedono nell'egoismo dell'Occidente. Le nostre morti sono causate dai gas e dal petrolio americani, ma noi perseveriamo per il successo. Il nostro lavoro ha fondamenta solide. Dobbiamo continuare senza sosta nello scopo di resistere ai giapponesi. Eh sì, nei suoi articoli lei non la manda a dire, fa un'allusione molto chiara al fatto che gli Stati Uniti continuano a fornire il Giappone di gas, di petrolio e probabilmente anche di armi, pur essendo un paese amico della Cina. Insomma, come sempre gli Stati Uniti, due armi di là, due armi di qua e se la cavano. E la storia la conosciamo, però nel 40 viene annunciata la tanto attesa alleanza con gli Stati Uniti. Poi il 7 dicembre del 1941 il Giappone attacca Pearl Harbor ed è la guerra. Il presidente Roosevelt invia un proprio emissario nei paesi alleati coinvolti dal conflitto per rassicurarli sulla determinazione degli Stati Uniti a vincere la guerra nel minor tempo possibile. L'emissario si chiama Wendell Willkie e potrebbe essere il prossimo presidente americano, così si vocifera. Insomma, il suo arrivo in Cina è salutato con grande onore dalla coppia presidenziale e qui arriva un fatto che rimarrà un mistero insoluto. Perché questo Wendell Willkie si innamora immediatamente di Mei Ling, rimane stregato da lei, non riesce a nascondere il suo interesse e la invita apertamente a seguirlo negli Stati Uniti. Una persona con quel cervello, quella capacità di persuasione e forza morale, potrebbe educarci sulla Cina. Madame sarebbe l'ambasciatrice perfetta. L'ascolteremmo come nessun altro. Insomma, come spesso fanno gli uomini, e lui cerca scuse politiche, insomma, maschera questa sua passione. In realtà lui vuole portare proprio lei, la persona, la donna, e non si saprà mai cosa accade tra i due, perché lei è una donna troppo intelligente e troppo ambiziosa per lasciarsi scappare quello che potrebbe governare il paese più potente del mondo, insomma il prossimo presidente degli Stati Uniti. E quindi si vocifera anche che i due siano amanti, e naturalmente la certezza non si avrà mai. Quello che sappiamo di certo è che Mei Ling-song trae il massimo profitto dall'interesse che ha suscitato in Wendell Willkie, e non avevamo dubbi su questo. Forse è lei che glielo domanda, lui che lo fa di sua iniziativa. Sta di fatto che l'invito alla First Lady cinese negli Stati Uniti viene sottoposto a Eleanor Roosevelt, che scrive una lettera a Mei Ling. Ho discusso la questione con mio marito. Entrambi sentiamo che questa sua visita alla Casa Bianca darà a noi la possibilità di conoscerla meglio e ci farà capire meglio i problemi della Cina. Ma in buona misura darà un'ottima pubblicità anche a voi. Mei Ling arriva a New York il 27 novembre 1942 con un aereo privato del Dipartimento di Guerra degli Stati Uniti. Per il momento è in incognito, lei non sta bene, si deve ricoverare in ospedale per una cura specialistica perché ha uno sfogo debilitante di orticaria, la malattia che ha sempre avuto. Lei va a trovarla, la Roosevelt, in forma privata, mentre la parte ufficiale del tour americano inizia qualche mese dopo, il 17 febbraio del 43, quando lei è guarita. Allora arriva a Washington in pompa magna, 25 addetti del personale, segretari, infermiere, giornalisti. La First Lady è bellissima, elegantissima, sensuale e affascinante. La sua visita è un evento di cui parla tutto il mondo. Ma Madam Chiang Kai-shek, First Lady of China, is welcomed to Washington by Mrs. Roosevelt, First Lady of the United States. Madam Chiang, for 15 weeks under medical care in New York, appears quite recovered as she hurries to greet President Roosevelt, who awaits her in his automobile. Her momentous meeting with the President is her first public appearance in the United States. Madame Chang riceve un onore unico, le viene concesso di parlare al Congresso, al Senato e alla Camera. È il primo cittadino privato a avere questo onore, la seconda donna al mondo dopo la regina Guglielmina d'Olanda l'anno prima, il 19 febbraio 43. Questo è il suo discorso. You, as representatives of the American people. Voi, come rappresentanti del popolo americano, avete la gloriosa opportunità di portare avanti l'operato dei vostri antenati, al di là delle frontiere e delle limitazioni fisiche e geografiche. Voi avete di fronte l'incommensurabile opportunità di portare avanti gli stessi ideali e incoraggiare la liberazione dello spirito umano in ogni parte del mondo. Posso assicurarvi che la Cina è pronta a cooperare con voi e con altri popoli al fine di gettare le basi di una duratura società sana e sicura che impedisca a qualsiasi vicino arrogante e violento di spingere le generazioni future in un'altra orgia di sangue. Plunge future generations into another orgy of blood. Capito, che fermezza! E anche che pronuncia, viene ribattezzata dagli americani da Dragon Lady, e lei emerge sempre più mentre il suo paese soffre per la guerra, ma anche per lotte interne fratricide tra i nazionalisti e i comunisti di Mao Zedong. E intanto il 12 aprile del 45 Roosevelt muore, gli succede Truman, e pochi giorni dopo, il 30 aprile, avviene l'epilogo, Hitler che muore nel suo bunker e la guerra mondiale che viene virtualmente vinta dagli alleati, la Germania è sconfitta. Poi il 5 agosto viene sganciata la bomba atomica su Hiroshima e il 9 a Nagasaki. Il 29 agosto Meling è alla Casa Bianca a colloquio con Truman, ha bisogno di un alleato forte perché ha capito cosa sta per capitare al suo paese, la guerra civile tra i nazionalisti del marito e i comunisti guidati da Mao Zedong. È un terribile contrasto fratricida che sfocia nella vittoria di Mao Zedong, che impone ai coniugi Chang di ritirarsi su un'isola a Taiwan, Formosa per gli italiani, allora si chiamava così. Il loro intento è quello di prepararsi a riconquistare il paese anche grazie all'alleanza con gli Stati Uniti, ma questo non avverrà mai. L'8 gennaio 1950 Meiling, che è ancora negli Stati Uniti, parla alla televisione nazionale NBC. Devo combattere con la mia gente dall'isola di Taiwan, fortezza delle nostre speranze, roccaforte della nostra battaglia. Con o senza aiuto, noi combatteremo. Il mondo è diviso in un gigante conflitto tra il bene e il male, tra libertà e comunismo. La Cina, sola e abbandonata, dovrà sopportare la battaglia per la libertà. Ma ormai è troppo tardi, negli anni successivi Chiang Kai-shek e Meiling Song cercheranno più volte di riconquistare il loro paese, tenteranno alleanze, prima con Kennedy, poi con Nixon, che era amico personale di Chiang Kai-shek prima di diventare presidente, ma è tutto vano, ormai è una lotta contro dei titani. Mao Zedong si è attestato in maniera radicata in Cina e la storia sta per imporre il riconoscimento della Repubblica Popolare Cinese. Ricorderete la diplomazia del ping pong, Kissinger, la distensione, Nixon con Chu Enlai che si stringono la mano. Il 5 aprile del 75, a 88 anni, Chiang Kai-shek muore. A Taiwan viene osservato un mese intero di lutto, gli succede, se così si può dire, un figlio di primo letto, il figliastro di Meiling, con il quale lei peraltro non va d'accordo. Insomma, tutto è finito, la Dragon Lady parte per gli Stati Uniti. Nel 95, a 98 anni, parla ancora al Senato americano. Ladies and gentlemen. Signore e signori, prima di tutto vorrei dirvi che sono felice che voi vi ricordiate di una vecchia amica dalla Cina, che durante la Seconda Guerra Mondiale è stata vostra alleata. Il 18 febbraio 1943, invitata al Congresso degli Stati Uniti, ho parlato al Senato e alla Camera. Vi dissi allora che sono venuta qui da bambina. Ho passato negli Stati Uniti i miei anni formativi al college. Per questo penserò sempre all'America come alla mia seconda casa. Ed è bello essere di nuovo a casa. Mei Lin Song muore a New York il 23 ottobre 2003, a 106 anni. Rimane un simbolo incontrastato, direi, di perseveranza, di determinazione. Ricordiamoci che durante il suo governo, o comunque il governo del marito, la Cina è stata considerata una potenza pari agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica. Ha ottenuto un rispetto mai avuto prima e sicuramente mai avuto dopo. Ci sono storie, alcune soprattutto in Italia, quasi sconosciute come questa. Persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, hanno lasciato il segno, hanno cambiato il destino di un paese e di un popolo. Persone che sono riuscite, hanno tentato, hanno avuto cadute e risalite, tutte cose che anche noi possiamo avere nella nostra vita. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre storie su cui volete che noi si punti il nostro microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure www.radio24.it oppure venite a cercarmi nei miei e nei nostri social, Facebook, Twitter, quello che vi pare, tanto sapete che se volete mi trovate. Ciao, a domani.